La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon pomeriggio a tutti dal Forum Agenti qui alla Fiera Milano City. Un saluto intanto a tutti quelli che sono qui, grazie per essere con noi, addirittura gli applausi. Grazie anche a Cristina Crippa, attrice pilastro del Teatro dell'Elfo di Milano, che guarda caso da gennaio sarà in scena con Morte di un commesso viaggiatore, che è un testo, uno spettacolo, un film che dovreste vedere e sapere a memoria, non perché vi auguri niente di male, per carità, però perché è un baluardo, insomma, della incarnificazione, diciamo così, artistica del vostro mestiere. Siamo qui dal Forum Agenti, siamo contenti di esserlo, abbiamo un'oretta davanti, la prima mezz'ora diffusa come sempre in radio sull'attualità cinematografica, una seconda invece che per il momento andrà diffusa qua nel forum, ma poi pian piano vi faremo ascoltare anche in radio nei prossimi giorni, sulla figura dell'agente di commercio nella storia del cinema e del teatro, che è una figura veramente molto romantica, molto di grande respiro. Avremo modo di parlare e di ascoltare, come sempre, molto dai film che hanno raccontato questo mestiere, questo modo di essere. Prima ancora, sei una che va al cinema, tu? Hai tempo di andare abbastanza, al cinema? Abbastanza, sì. Quando sì, non sei sì, su un appena, palcoscenico? Appena posso. Cosa ti piace vedere di solito? Ma, un po' di tutto. Un po' di tutto, quello che è bello. Sì, sì, sì. Allora, dicevamo, cinema è una settimana interessante come uscite cinematografiche, una settimana nella quale arrivano 4-5 film che vale davvero la pena andare a vedere. Noi vogliamo cominciare, e siamo felici di farlo, con un film italiano che si intitola La mafia uccide solo d'estate. Lo ha diretto un regista che è conosciuto a tutti soprattutto come una iena, come un uomo di televisione. Stiamo parlando di Piff, lo avrete presente. Ma è un film che ha davvero sorpreso, colpito tutti al Torino Film Festival, che si sta tra l'altro concludendo proprio in queste ore, perché racconta con una freschezza nuova, con una vena ritrovata, questo tema che ha strozzato l'Italia, che è appunto quello della mafia, la stagione delle grandi stragi. Lo fa parlando a un pubblico più giovane, forse, di quello rappresentato da noi, Cristina, però lo fa con uguale rigore, e quando si riesce a trovare rigore in un linguaggio rinfrescato, rinnovato, è sicuramente una gran cosa. Allora, noi cominciamo a sentire subito una clip di questo film, La mafia uccide solo d'estate, poi ne parliamo fra poco con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Mamma, mamma, mamma, papà, mafia. La mafia a Palermo ha sempre influenzato la vita di tutti. Qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo Attilio Buonincontro. Quale mafia è mafia? Secondo me è tutta una questione di fine. Io ho accettato il lavoro per stare con te, perché c'eri tu, perché da una vita che ti... Ma la mafia può uccidere anche noi. Tranquillo. Ora siamo d'inverno. La mafia uccide solo d'estate. Boris, ci sei? Boris Sollazzo, pronto? Non c'è Boris Sollazzo, ecco, il primo colpo di scena in diretta. Allora, nel frattempo cerchiamo di rimettere insieme, ecco, il collegamento. Cioè, Boris, se non sbaglio, è in attesa anche lui che finisca il Torino Film Festival, quindi è dentro e fuori dalle sale. Boris, ci senti? Sì, mi sento, buongiorno. Eccoti, ecco, ben trovato. Siamo qui al Forum Agenti, qui a Milano Fiera, con il nostro pubblico qui di fronte. Stiamo parlando appunto di La mafia uccide solo d'estate, dicevamo, film che ha spiazzato anche positivamente il Torino Film Festival. Beh, un film che adesso vedremo quale sarà il risultato del Torino Film Festival, ma che di sicuro è stato uno dei film italiani più apprezzati nelle ultime edizioni di Torino. Un film popolare, un film potente, fortissimo, un film che racconta la guerra sociale, civile, morale che questo paese ha combattuto in questi ultimi anni, e lo fa con una favola, la favola di un bambino, Arturo, che come principe azzurro ha addirittura Giulio Andreotti. Ovviamente è un paradosso comico che rende tutto però molto più drammatico e molto più poetico. E Piff ci riesce con la grazia con cui fa la iena, con la grazia con cui fa il testimone. Non a caso il film nasce dalla puntata del testimone vista da Martani, lo sceneggiatore, che parlava proprio di mafia. Allora andiamola a sentire Piff, che proprio Boris ha raggiunto lì a Torino a margine della presentazione del suo film La mafia uccide solo d'estate. Sentiamo. L'impressione è che tu voglia rendere giustizia a chi eroe in passato non era stato considerato, cioè i Chinnici, Giuliano, i Francese, tant'è vero che Falcone e Borsellino insomma arrivano alla fine con cose più ufficiali, invece loro li tratti con affetto. Sbaglio oppure? Sì, no, perché alla fine Falcone e Borsellino, chiunque conosce Falcone e Borsellino perché sono venuti alla fine. Gli altri Chinnici non lo conosce nessuno. Rocco Chinnici non proprio un ragazzino di oggi, ma forse anche un adulto, non ha proprio lo strumento. La lotta alla mafia in quegli anni era proprio affidata alla volontà dei singoli, perché loro potevano benissimo, come facevano molti altri magistrati, guardare dall'altra parte. E invece no, cioè non c'era una strategia dello Stato. Io purtroppo non sono riuscito a metterlo, ho intervistato un poliziotto che oggi è in pensione, che mi raccontava che lui i latitanti li arrestava andando in giro con la sua 500 gialla. Cioè andava, vedeva il latitante, gli puntava la pistola, lo ammanettava, faceva guidare la 500 gialla al mafioso e entrava al commissariato così. Perché dice, avevamo l'unica cosa che avevamo come furgone, non della polizia in borghese, era appunto un furgone che era diventato la barzelletta e lo conoscevano tutti. Cioè questa era la lotta alla mafia, gli strumenti, la strategia dello Stato. E cioè, come faccia a non, cioè, non si fa a non ricordare queste persone qua? Cioè che veramente nessuno gli aveva detto devi farlo, lo volevano fare. E se io mi posso permettere di fare un film sulla mafia, non pagare il pizzo e essere così, fare il figo, è perché grazie a loro. Questo è un dato di fatto inopinabile. Ti è mai capitato di conoscere uno di loro? Di quelli che racconti come... No, purtroppo no. Purtroppo io ti ho detto, io non ero così sveglio, quindi però sai, a Palermo sfiori chiunque, cioè io vivevo, ho scoperto sempre facendo ricerche per il film che vivevo di fronte a Vito Ciancimino, che era l'assessore che riceveva Provenzano, quindi magari una pallonata gli è arrivata la macchina di... E nel 92 io, un mio amico aveva la piscina in un residence e abbiamo scoperto che tre cancelli dopo c'era Totorina. Questa era Palermo. E questo era Piff, allora Radio 24, La Rosa Purpurea, per raccontare il suo film La mafia uccide solo d'estate nei cinema italiani da questo fine settimana. Noi abbiamo sempre un'abitudine, lo sanno quelli che ci ascoltano in radio, quella di giocare insieme, facendolo cerchiamo di farvi vincere dei bei film in buoni formati, spesso in Blu-ray. E allora sentiamo questi 10 secondi di un film misterioso, sentiamo. A che accidenti ti serve un cervello secondario? Insomma, si vende ogni parte del kaiju. Cartilagine, milza, fegato, persino lo sterco. Ma il cervello ha troppa ammoniaca. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, o voi che siete a casa dispersi nella lunga penisola, scrivete alla Rosa Purpurea @radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo, con il titolo di questo film, e provate a vincere la versione in Blu-ray di questo film. Più tardi avremo una seconda chance per perfezionare il tiro. Adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo qui ancora a parlare di cinema. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea dal Forum Agenti qui in Fiera Milano. Abbiamo parlato di quello che per noi è il film della settimana, La mafia uccide solo d'estate, ma c'è un altro film della settimana, almeno per quanto riguarda la capacità di raggiungere un pubblico ampio. Tra l'altro siamo proprio in una settimana nella quale ne parleremo anche più tardi, il film di Checco Zalone, tra l'altro guarda caso rappresentante di Aspirapolveri nel film, quindi come dire, Lupus in Fabula, ha battuto praticamente tutti i record, anche quello di Avatar come numero di spettatori arrivati in sala, quindi come dire, è una settimana importante, storica a suo modo per il cinema italiano. Qui c'è un altro film che non è italiano ma che arriva da oltreoceano, ma che ha un'attrice che è diventata forse la forza trainante, una delle forze trainanti del cinema emergente hollywoodiano. Stiamo parlando di Jennifer Lawrence, il film è il secondo della saga di Hunger Games. E allora sentiamo questa clip e ne parliamo fra poco. Qualsiasi cosa farò si ritorcerà su di te e sulla mamma. E io non voglio. Dagli ultimi Hunger Games, qualcosa è cambiato. Lei si è battuta molto bene negli Hunger Games. Ma erano giochi. Le piacerebbe una guerra vera? Migliaia di vittime fra la sua gente. I suoi cari. Morti. Che cosa devo fare? Ricorda chi è il vero nemico. Allora, Boris, Hunger Games, la ragazza di fuoco, continua la saga della, tratta dalla trilogia letteraria di Susan Collins, un film che nella sua, intanto anche il libro ha avuto molto più successo in America che da noi, mentre noi, da noi altre saghe, tipo Twilight per esempio, hanno avuto anche a livello letterario molta, molta fortuna. Anche il film in Italia non aveva avuto un pubblico sterminato, sebbene si trattasse tutto sommato di un film accettabile, però questa volta l'arrivo di Jennifer Lawrence per esempio al Festival di Roma qualche settimana fa è stato un evento clamoroso, centinaia di persone, forze dell'ordine in grande spolvero. Questa attrice, Boris, è diventata capace di essere dentro un film per ragazzi, se vogliamo, come Hunger Games, ma di essere anche l'Oscar, di essere anche l'attrice di Un gelido inverno, di essere anche quella del lato positivo, cioè di essere un'attrice drammatica a tutto tondo. È davvero forse oggi, se non la numero una delle prime 4-5 attrici del cinema hollywoodiano? Sono assolutamente d'accordo, Franco. Jennifer Lawrence ha dimostrato un eclettismo straordinario, appunto, dal gelido inverno è passata ad Hunger Games, dal lato positivo l'Oscar è passata a questo secondo Hunger Games. Questa è forse la sua forza, ed è lei che ha trainato probabilmente questo colossal verso i grandi risultati ottenuti fino adesso. A mio parere, tra l'altro, questo secondo capitolo merita più del primo, perché è più politico, più profondo, più potente, e c'è una riflessione sul potere, sulla comunicazione, sulla società attuale, ovviamente proiettata in un futuro distopico, che è molto più forte. Questo nonostante un regista come Francis Lawrence, che è un poco più di un mestierante, ricordiamolo, il suo più grande successo è di 20 anni fa, 4 sotto zero, il famoso Cool Runnings sui giamaicani in bob che provavano alle Olimpiadi, però questo basta, perché è tutto fondato su di lei, e non scordiamolo, su altri grandi attori come Woody Harrelson e Philip Seymour Hoffman, che in questo capitolo sono determinanti. Alla fine è un prodotto commerciale, ma a mio parere di alto livello. E allora, quindi il consiglio è quello di, anche per una situazione family, diciamo così, può essere una buona idea per il weekend. Io voglio parlare di un altro film, Boris, che ho visto a Torino proprio qualche giorno fa, prima di tornare qua a Milano per la trasmissione, e che mi ha veramente colpito. So che è un film che sta avendo grande successo di pubblico lì a Torino, c'è un pubblico sicuramente molto qualificato, molto cinefilo, che però è un film che si presta a una visione anche abbastanza trasversale. Stiamo parlando di C'era una volta in estate, il titolo originale è The Way Way Back, ed è diretto da Nat Faxon e Jim Rash, ma soprattutto è interpretato da Steve Carell, da Toni Collette, da Sam Rockwell, uno straordinario Sam Rockwell, e il protagonista è un ragazzino di 14 anni, che è Duncan, che va in ferie con la sua famiglia malvolentieri, famiglia tra l'altro aggiustata, la madre è quella naturale, il padre è quello aggiunto dopo un divorzio, va in questa località di mare dove sostanzialmente si sente un po' un nerd, un emarginato, ma qualcosa succede, è la classica estate di superamento della linea d'ombra, quando Duncan scopre se stesso e le sue potenzialità nonostante l'in giro nessuno sembri potersene accorgere. Sentiamo la clip. Questa è la colonna sonora del film C'era una volta in estate. Tra l'altro l'uscita è stata quasi affrettata proprio per il successo che il film ha avuto a Torino, ed è un film che merita molto, perché è un film agrodolce che racconta sì i figli, ma racconta anche i genitori, e che ha in questa figura di Sam Rockwell quella del di quello che ti tira fuori il meglio di te quando la tua famiglia non è capace di farlo, ed è una figura straordinaria, Boris. Sì, sono quei film che riescono a fare straordinariamente gli americani, e forse solo loro. Io non so se ricordate Adventureland con Kristen Stewart, un film molto simile, con una colonna sonora bellissima come abbiamo sentito adesso, e che in qualche modo racconta con poesia, anche con una certa ingenuità, ma con forza e con chiarezza, quello che è la linea d'ombra, che di solito è sempre un'estate, perché l'estate rappresenta in qualche modo il parossismo della vita degli adolescenti, con i suoi amori, con i suoi divertimenti. E qui c'è un Sam Rockwell straordinario, io non riesco a capire ancora come non sia diventato uno degli attori più richiesti, probabilmente è troppo outsider perché possa essere apprezzato del tutto, ma è un attore straordinario. Poi Carell e la Collette riescono a dare forma degli adulti immaturi in maniera molto, molto, molto buona. C'è questo ragazzino straordinario e insomma ci eravamo lasciati tempo fa con Noi siamo infinito, che era uno dei film su questo tema molto più bello. Là si percorreva un anno scolastico, ecco, io percorrerei quell'anno scolastico e poi lo chiuderei con quest'estate di C'era una volta in estate, che è davvero davvero carina, ecco, un film delizioso, è giusto usare questo vocabolo. Delizioso e anche capace di muovere qualcosa dentro. Grazie Boris per averci come sempre raccontato un po' cosa c'è di bello e di buono nel cinema fuori nelle sale. Appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a te Franco e a tutto il pubblico e buon cinema. E allora, questa è l'attualità cinematografica. Ricordo che escono anche Free Birds, Tacchini in fuga, animazione, come dire, molto divertente per un pubblico magari più di bambini, e anche nelle sale, oltre ad Hunger Games e ai film di cui vi abbiamo parlato, c'è anche La moglie del poliziotto, che è un film invece d'autore molto duro, molto cupo, che vi possiamo consigliare. Dobbiamo giocare ancora insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Il secondo attacco colpì Manila. Nessuno sa che fa. E poi il terzo colpì Cabo. Così capimmo che la cosa non si sarebbe mai arrestata. Per combattere i mostri, abbiamo creato dei mostri a nostra volta. E allora, diteci di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it, provate a vincere il Blu-ray di questo film. Come hanno fatto i nostri ascoltatori Davide della Scala di Firenze e Antonello Ferrante di Gioia del Colle con il game di settimana scorsa. Oh, ciao cara. Tu alzati in piedi quando mia moglie entra in aula. Carter! Mi scusi, signore. Humphrey, spero che non ti dispiace, ma ho detto ai Garfield che avremmo cenato da loro stasera. Ah, considereremo i preliminari come già fatti, se non ti spiace. No, certo che no, Humphrey. E allora, la settimana scorsa avevamo giocato con i Monty Python, Il senso della vita, l'edizione in Blu-ray che è appena uscita, abbiamo detto dei vincitori, ne parliamo con il nostro con Giulio San Giorgio di FinTV, della settimana del FinTV, che saluto, ciao Giulio. Ciao Franco, un ben ritrovati radioascoltatori. Allora, raccontaci un po' questa edizione in Blu-ray di Monty Python, Il senso della vita. Sì, a 30 anni dall'uscita in sala, proprio quando i Monty Python si stanno riunendo per un tour prossimo avventura, arriva il Blu-ray di questo che è il loro ultimo e migliore film, di questo gruppo d'avanguardia demenziale che scosse il ben pensare dell'Inghilterra. Blu-ray con un buon video, audio italiano, però niente più che pulito, straordinario comunque il comparto extra con una divertente reunion del gruppo, commento audio di Terry Jones e Terry Gilliam, scene tagliate, making off e davvero una moltitudine di contenuti scherzosi e sfiziosi. Questo quel che concerne il film, il game della scorsa settimana, come sempre andiamo anche a spulciare qualcosa dalle programmazioni TV, dai palinsesti in chiaro di questa prossima settimana per scegliere cosa vedere. C'è una doppietta coreana di grande sangue e passione che si intitola Old Boy prima e Lady Vendetta dopo, sono in onda mercoledì e giovedì su Cielo. Sì, due film di Park Chan-wook, Old Boy su Cielo alle 23.15 mercoledì 4 dicembre, poi Lady Vendetta su Cielo alle 21.10 il giorno seguente, giovedì 5 dicembre. Mentre aspettiamo l'uscita in sala del rifacimento di Old Boy da parte di Spike Lee, Cielo ci offre un ripasso della trilogia della vendetta del coreano Park Chan-wook, che con tre film ha raggiunto i risultati più alti di un genere profondamente legato alla divisione e alle scissioni di un paese come la Corea, ovvero il film di Vendetta, sempre strettamente incentrato sulla dimensione familiare e fratricida. Questi sono il secondo e il terzo capitolo, film eleganti e implacabili, pulp e sottilmente selvaggi da uno dei maggiori registi manieristi del cinema d'oggi. E allora Park Chan-wook quindi su Cielo la prossima settimana, grazie Giulio San Giorgio. Grazie a te Franco, alla prossima settimana. E siamo giunti alla fine della nostra puntata tradizionale, chiamiamola qui, qui dal Forum Agenti, qui a Fiera Milano, però qui il nostro pubblico rimane con noi perché fra poi invece parliamo di, della figura del commesso viaggiatore, dell'agente di commercio, del venditore, all'interno del cinema e del teatro. Io invece saluto chi ci sta ascoltando da casa, che questi contenuti vi potrà sentire durante le prossime settimane, grazie a Isotta Scenna e a Giorgio De Luca in assistenza e a Gianmarco Ferronato e a Fabio Cantadori in regia. Un saluto da Franco D'Assisti.